Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di giacimenti gastronomici, i nostri buonissimi prodotti, ma non solo perché sono buoni, ma andremo a vedere un po' le storie, le leggende, come sono nati, ad esempio come è nato il gorgonzola, e perché si chiamano strozzapreti, oppure il babà. È nato a Napoli o è stato portato dalla Polonia? Bene, storie meravigliose che sono servite anche a far conoscere questi prodotti, anzi forse è una delle chiavi di successo, ad esempio per il lardo di Colonnata, poi parleremo anche di questo. E noi andremo un po' a scoprire, andremo a vedere appunto la loro nascita, il loro battesimo, perché parleremo anche di nomi completamente inventati. Quindi chi volesse intervenire poi può chiamare, numero verde 800 024 0024, sms 349 238 6666. Bene, comincio da un formaggio che è il gorgonzola, bene conosciuto in tutto il mondo. C'è un paese che si chiama Gorgonzola, forse è stato dato questo nome perché è nato lì, ma la storia, diciamo, è abbastanza nubolosa, perché sono tante storie che si intrecciano, ma forse ce n'è una in particolare che è quella che piace anche di più, è quella che insomma ha vinto sulle altre. È quella che racconta che un casaro innamorato una notte era con la sua amata, si è dimenticato della cagliata, è rimasta appunto in caldaia, e per recuperare, quando se n'è accorto al mattino, il giorno dopo ha aggiunto una seconda mungitura. Dopo qualche mese è emerso questo formaggio che non era più solamente tutto bianco, ma aveva delle bolle verdi. Ecco, questa è un po' la storia, un po' una leggenda, ma io voglio chiedere a un esperto, un affinatore come Giovanni Fiori della ditta Guffanti di Arona, se è credibile, se può essere possibile appunto con questo sistema che sia nato questo formaggio, oppure se tecnicamente non è possibile. Buongiorno Giovanni. Davide, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la storiella che ti ho raccontato effettivamente è tecnicamente possibile, anche se è una storia avvolta sicuramente dalla leggenda, su questo non ci sono dubbi. In maniera più razionale, diciamo così, il gorgonzola è un formaggio, diciamo, molto antico, nato, come dicevi tu, a Gorgonzola, alle porte di Milano, si dice nel 1879. Ci sono anche altre fonti che danno i natali del gorgonzola, sempre più o meno nello stesso periodo, a uno dei centri caseari più importanti da secoli, che è Pasturo in Valsassina. Scusami Davide, mi senti? Sì, sento benissimo, prosegue, ci sentiamo chiaro e forte, come perfetto. Si dice. Comunque, sicuramente la città di Gorgonzola è il centro più noto, soprattutto perché era il crocevia di tutta quella transumanza di ritorno da Malghe e dal Peggi, ed era proprio un crocevia, cioè si ritornava a Gorgonzola sia da nord, da est, da ovest e anche da sud, quindi dagli Appennini emiliani sostanzialmente. E il primo gorgonzola, difatti, il primo nome, diciamo, del gorgonzola era Stracchino di, sì, Gorgonzola, certo, riferito proprio alla città di Gorgonzola, o anche Stracchino Verde, proprio per l'evoluzione di muffe che questo formaggio aveva. Scusami, quindi, mi sembra di ricordare che Stracchino, perché se non ci fossero state le muffe, appunto quello sarebbe stato lo Stracchino che produceva il nostro amante, diciamo, durante le giornate normali. Sì. Anche se in realtà, in maniera anche qui più tecnica, il discorso, il nome Stracchino era legato al fatto che l'animale che tornava dall'alpeggio, dalla malga, era un animale stanco, quindi stracco. E si faceva il latte, il formaggio con il latte di questo animale stracco. Quindi il gorgonzola che veniva prodotto, in questo caso a Gorgonzola, era proprio quello con la pasta venata di erborinatura, gusto molto marcato, il cosiddetto gorgonzola a due paste, appunto, che è oggi definito gorgonzola piccante. Ecco, Giovanni, senti, sì, ma anche da Stracchino è nato anche lo Stracchitun, che è un altro formaggio che proprio recentemente ha ottenuto l'IGP, diciamo, del Bergamasco. Quindi anche questa è una derivazione dallo Stracchino. Assolutamente sì, è diventato DOP, tra l'altro, da poco, sì. Ed anche lui appartiene alla famiglia, alla grande famiglia degli Stracchini, proprio quei prodotti che venivano prodotti con le mungiture autunnali dall'animale che era rientrato stanco, ovviamente, quindi stracco dalla malga. Tra l'altro mi preme sottolineare, parlando proprio di storia e di origini, che la produzione a due paste, che è quella col quale nasce il gorgonzola, quindi la mungitura della sera unita alla mungitura calda della mattina, era quella che generava questo formaggio che aveva una struttura di pasta che permetteva al gorgonzola appunto di stagionare e maturare in cantina per parecchi mesi, perché il gorgonzola era anche moneta di scambio che utilizzavano i casari rientranti dalle malghe per pagare gli osti, dove loro si fermavano a dormire, quindi ecco, pagavano il vitto, l'oggio e lo stallamento anche degli animali. Infatti c'è anche un'altra bella storia sulla nascita dello stracchino, che non è questa appunto del casare innamorato, ma che è quella più romantica. Sì, si dice che in un'osteria una sera l'oste, per fare uno scherzo ai suoi diciamo ospiti, avesse messo un formaggio che aveva lasciato per tanto tempo così da parte, e questo avesse prodotto delle muffe, ma non muffe come si produce generalmente per il gorgonzola, e questi avessero apprezzato questo stracchino, certo. E quindi di lì è probabilmente è nata anche questa storia. Bene Giovanni, io ti ringrazio, bisognerebbe parlare ancora dello strachitun, della guerra che c'è stata tra casari nel Bergamasco, tra montagna e pianura, e bisognerebbe anche dire che a Gorgonzola diciamo è rimasta una sagra, gli organizzatori di una sagra che sono bravissimi, che vanno anche in giro per l'Italia a portare questa testimonianza del loro paese, del Gorgonzola. Grazie Giovanni Fiori, grazie a te Davide, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie. A presto, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti, di nascita di prodotti. Ora andiamo a Colonnata, andiamo a parlare del lardo di Colonnata, perché anche qui diciamo che le storie si intrecciano, sono anche storie abbastanza, se vogliamo, divertenti, in alcuni casi sono anche diciamo lotte storiche. Ebbene, di questo ne parleremo con un produttore, ma prima numero verde 800 24 0024, SMS 349 238 6666. Bene, buongiorno a Fausto Guadagni della Larderia Guadagni. Buongiorno. Buongiorno Davide. Fausto, diciamo che sono tante le storie che si raccontano, le leggende che si raccontano sul lardo di Colonnata. Io ti dico quelle che ho così raccolto. Una di queste parla di uno sciopero dei cavatori, che costretti per una settimana appunto a rimanere nelle famose diciamo montagne da dove si estrae quello splendido marmo, e si erano portati con sé appunto il lardo, che era il prodotto più povero che tutti diciamo allora scartavano, e loro si portavano e si facevano questo pane con pomodoro e lardo. Ebbene, rimanendo su in montagna si resero conto che un posto per conservarlo erano delle conche che loro stessi stavano diciamo preparando, e di lì misero un po' di aglio, misero qualche bacca che avevano trovato, e questo lardo divenne molto più appetibile, molto più diciamo buono da mangiare. È vera questa storia, Fausto, oppure è solo una leggenda? Insomma, sono tante un po' le storie legate a questo prodotto, diciamo, che in tutti questi anni diciamo ha sempre mantenuto un'identità locale, diciamo, tranne che in questi ultimo periodo, che ha avuto diciamo attraverso te soprattutto e altre organizzazioni diciamo un'espansione si può dire internazionale, ma insomma si parte sempre dal lavoro delle cave, diciamo. Il lardo nasce appunto dentro queste conche di marmo lavorate direttamente anche nelle cave di marmo, perché insomma a quei tempi le cave si raggiungevano a piedi, oggi è tutto un altro mondo, sicché il cavatore viveva in cima alla montagna per diciamo 15 giorni, un mese prima di tornare a casa, e in questi luoghi dove non c'è terra ma c'è solo marmo, solo sassi, diciamo era un po' un problema mantenersi i rifornimenti alimentari per sopravvivere anche in grossi gruppi, perché in queste cave diciamo una volta lavoravano centinaia e centinaia di persone, oggi è un altro mondo, ecco. Cioè, rimani con noi, sentiamo Graziella da Bergamo, una radioascoltatrice. Buongiorno Graziella. Pronto? Sì, buongiorno. Prego, parli pure. Pronto, mi sente? Sì, parli, sì, Graziella. Buongiorno. Senta, riferendomi al Gorgonzola, io non so per quale motivo mi è sempre stato detto che nasceva a Novara. Era vero che c'era questa strana cosa col nome di Gorgonzola, la cittadina di Gorgonzola, ma il vero punto da cui nasce il Gorgonzola, viene prodotto il Gorgonzola, è tutto il novarese e la zona di Novara. Allora, questa è una cosa che sentita dire. Questa seconda parte, Graziella, va benissimo, nel senso che oggi la maggior produzione è in provincia di Novara, ma è sicuro che è nato in Lombardia. Poi diciamo che oggi la produzione forse più ampia e più variegata è appunto nella provincia di Novara. Grazie Graziella di questa puntualizzazione. Sentiamo Claudio dalla provincia di Milano. Buongiorno Claudio. Sì, buongiorno. No, niente, io appunto ho sentito appunto parlare di Gorgonzola, volevo solo dire che per quanto io non sono di Novara, quindi magari la gente di Novara mi potrà, però ho degli amici del novarese che sono molto cultori, diciamo, del cibo, e parlando con loro, siccome io ho un piccolo sapientino, diciamo, che parla di cibo, ero venuto a sapere che appunto il Gorgonzola era di origine di Novara. E allora, no, il suo sapientino sbaglia sicuramente su questo. L'origine è sicura lombarda, pur tutte le tracce storiche portano lì. Come dicevo, sicuramente oggi l'area di produzione è in provincia di Novara. Quindi ci sono questi due aspetti. Poi, come ho detto all'inizio, sono leggende, difficile andare a riscontrare. Ma mi sembra che Fiori abbia dato anche una data ben precisa nella storia di questo formaggio, e quindi credo che si debba più credere a questa storia lombarda rispetto, anch'io non sono lombardo, quindi non difendo assolutamente l'origine di questo prodotto, diciamo dalla documentazione che si può trovare è questa. Grazie a Claudio dalla provincia di Milano. Ora andiamo, Guadagni continua a rimanere con noi e abbiamo con noi Giovanni Ballarini è il presidente dell'Accademia della Cucina, un noto scrittore nonché professore universitario. E devo dire che una volta mi è capitato, diciamo, un suo grosso scritto sull'origine della parola bresaola, perché se uno ci pensa bene, cioè bresaola non si sa da che cosa possa esattamente derivare. Ci sono varie storie, ci sono anche qui varie interpretazioni sicuramente che succedono su questo nome. E allora io voglio chiedere a Ballarini, magari se ci dà così brevemente il perché di questa origine. Pronto Giovanni? Bene, abbiamo perso Giovanni Ballarini, peccato. E allora sentiamo Bruno da Milano. Buongiorno Bruno. Pronto Bruno da Milano? Anche questo, brutta giornata questa. Bene, abbiamo ripescato Giovanni Ballarini? No. Allora sentiamo Matteo dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Sì, ciao Davide. Buongiorno. No, volevo soltanto ricordare sul Gorgonzola anche un altro pezzo di una leggenda interessante. Il Gorgonzola è un erborinato e ha dato il nome a tutti i blue cheese erborinati, e la parola nasce da erborin, che in milanese vuol dire prezzemolo, e quindi proprio perché il Gorgonzola, soprattutto quello naturale, quello come si dice in gergo piccante, ha queste venature verdi, e all'origine sembrava quasi che ci fosse del prezzemolo dentro, e questa parola erborinato nasce dalla parola erborin milanese, e quindi, come dire, il Gorgonzola è un prodotto che ha una grande storia e molte leggende intorno. Sì, ma erborine, diciamo, la caratterizzazione di un erborinato, non è il nome. Cioè noi stavamo vedendo dove nasce questo nome Gorgonzola, se non dal paese che si chiama in questa maniera. È evidente che non può essere altro che il paese di questa, appunto il paese, c'è un riferimento, chissà, forse questo casaro era originario di Gorgonzola, o diciamo che questa sua sede era a Gorgonzola. Bene, grazie, sentiamo Bruno da Milano, che mi sembra sia stato ripescato. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno Paolini. Allora, il discorso che volevo fare da questo, non me ne vogliano quelli di Reggio Emilia, Parma, Modena, in merito al parmigiano reggiano. Volevo rivendicare la paternità, che è proprio milanese. Sono pochi che lo sanno, risale ancora ai tempi degli Sforza. Lei sa che a Milano c'erano i nobili, gli Sforza. Sì, tutto risale agli Sforza, risale il torrone, risale il panettone. Questi Sforza erano veramente dei grandissimi buongustai, poi lo vedremo anche sul panettone. Grazie, grazie. Quindi lei dice è milanese, insomma. Perché ai tempi c'era degli Sforza, c'era il Granducato di Modena, certo, il Granducato di Parma, il Regno Lombardo-Veneto, eccetera. Cosa succedeva? Che gli Sforza ogni volta che si recavano dei Granducati di Parma o di Modena, ci portavano dietro un formaggio molto grosso, con una lo chiamavano anche furmai, una forma molto grossa, e magari stavano nelle loro tenute, magari per 3, 4, 5 mesi, si portavano quindi tutti i formaggi. Solo che portarlo ogni volta era un peso, quindi insegnarono ai contadini della zona, quindi di Parma, Reggio Emilia, a fare questo formaggio. Va bene, caro amico, vabbè, vediamo se c'è da Parma e Reggio, qualcuno magari salta fuori. Comunque del parmigiano reggiano c'è traccia già nel boccaccio, quindi risaliamo molto ma molto indietro, quindi credo che, non lo so, è tutto sicuramente da verificare. Grazie Bruno, voglio tornare al mio amico Guadagni perché c'è un SMS di un radioascoltatore che dice: Colonnata, dove si trova? Amedeo. Caro Fausto, dove si trova Colonnata? Colonnata si trova in Toscana, sotto il comune di Carrara. Diciamo sono 14 case o 15. Sì, poco più, diciamo, okay. Meno di 300 abitanti in mezzo alle cave di marmo, diciamo, dove c'è il centro mondiale, diciamo, della lavorazione del marmo. Ecco. E appunto ti volevo dire, diciamo, appunto sentivo un po' queste storie, no? E per dire, questa lavorazione qua del lardo, cioè ha anche delle influenze un po', pensiamo, anche un po' mesopotame, perché l'attività dell'estrazione del marmo qua a Carrara l'hanno iniziata praticamente i romani, cioè trasmigrando tutta quella manovalanza di schiavi che prendevano, diciamo, da queste parti della Grecia, lì della Mesopotamia, e da quelle parti si può dire che siano arrivate le spezie che oggi, diciamo, noi troviamo sul mercato comune e che danno, diciamo, proprio questa dolcezza, questo sapore al lardo, che lo rendono unico e particolare, ecco. Bene, permettimi che aggiunga io che abbiamo detto dove si trova, diciamo anche che sono pochissimi produttori che sono nati, quindi che erano all'inizio, e che c'è moltissima, diciamo, contraffazione del lardo di Colonnata, tant'è vero che credo che di quello spacciato per lardo di Colonnata ce ne sia solamente un decimo di quello che è in produzione. E io ti voglio far dire un'ultima cosa, perché poi devo passare la linea alla regia. Fausto, di come si riconosce il vero lardo di Colonnata, da quale segnale, da quale marchietto che c'è sopra? Sì, noi, diciamo, come disciplinare del lardo di Colonnata IGP abbiamo evidenziato, diciamo, come un sigillo rosso che riporta, diciamo, il logo dell'IGP sul retro, un sigillo in plastica rossa applicato alla cotenna, inemovibile, e riporta un codice a barre con un numero, e ci dovrebbe essere una tracciabilità fra il rapporto del peso e di questo numero, cioè praticamente comunicando questo numero si dovrebbe capire se questo pezzo di lardo è stato confezionato, non so, con 500 grammi o con una frote da 5 kg. Insomma, è un po' un gioco che toccherebbe un po' alle istituzioni anche verificare sul mercato queste cose, ma il grande neo è che, diciamo, in queste piccole realtà, piccole e grandi, nello stesso tempo ci sono delle deficienze. Grazie Fausto, devo passare la linea alla regia, mi scuso con Mangoni e Ballarini che sono i miei ospiti, dovremo ora passare la linea alla regia, torneremo da loro fra qualche minuto, quindi linea alla regia, a fra poco. Eccoci di nuovo, andare a scoprire, vedo che ci sono moltissimi radioascoltatori in attesa, Alberto, Franco, Tiziano, bene, poi vi darò la parola anche a voi sicuramente, perché vedo che il Gorgonzola ha eccitato un po' tutti, anche, diciamo, il localismo, ma ora vorrei andare sulla Bresaola. tavola, l'avevo annunciato prima con il professor Ballarini, che è presidente dell'Accademia della Cucina, nonché noto docente universitario. Ebbene, io volevo chiedere appunto al professore se il nome Bresaola deriva da Brisaola, che veniva usato in Val Chiavenna, perché c'era un qualcosa di dialettale che diceva salà come brisa. Brisa è una ghiandola dei bovini, se non erro, e quindi se deriva da questo, professore, oppure se deriva da altre cose. Lei ha studiato a fondo questo nome. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno, ciao Davide. Il tema dialettale è abbastanza recente, ma noi dobbiamo risalire molto, molto più indietro, a 5.000 anni fa, quando vi era il bre e il sal. Il bre e il sal. Sal vuol dire salato, bre era il cervo. Quindi vuol dire carne di bovino ruminante selvatico, il cervo per antonomasia, salato. Quindi questo termine è molto più antico, che poi i dialetti hanno reinterpretato. Ecco, quindi diciamo che bisogna andare su questi nomi sempre molto lontano. Comunque rimani con noi, Giovanni, perché poi ti voglio chiedere una cosa sul parmigiano dopo un intervento di un radioascoltatore. Voglio sentire Tiziano da Gorgonzola. Buongiorno Tiziano. Buongiorno a voi e grazie di darmi questa possibilità. Abito a Gorgonzola e mi piace quello che hai chiamato prima il localismo, quando non è motivo di divisione ma motivo di condivisione. Il Gorgonzola è nato a Gorgonzola da mucche che ritornavano dalla transumanza, arrivavano nella pianura padana, erano stanche, il formaggio prodotto era un po' più debole, messo a stagionare in cantine sotto il livello della terra, assumeva quella particolare muffa che lo ha portato ad essere contraddistinto. Noi abbiamo perso da tempo la produzione di questo formaggio, abbiamo ripreso da circa 3 anni una produzione limitatissima, avendo anche la denominazione di origine comunale. Penso che sia il lavoro che state facendo di dare spazio a quelle che sono le peculiarità del nostro territorio un lavoro molto bello, ve ne sono molto grato e spero che continuiate. Grazie Tiziano. Bene, ora andiamo a Napoli, andiamo da un ingegnere, ma che di cibo se ne intende, come un docente universitario anche lui, ma che se ne intende anche perché di dolci credo sia uno dei maggiori esperti. Ha fatto anni fa anche un libro straordinario, molto originale. Andiamo da Fabrizio Mangoni. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Davide, come stai? Bene, bene. Senti Fabrizio, io a te forse è scontato, voglio raccontare o babà è una cosa seria, nel senso che questo babà che noi tutti vediamo napoletano, e poi dietro c'è una storia bellissima, una storia di un re che era stato sconfitto e era così triste che si mise ai fornelli, e poi ti lascio raccontare a te il resto. Beh, la storia fondamentalmente è appassionante, perché il babà nasce alla metà del 700 in Lorena a opera di Stanislao Leszinski, 2 volte re di Polonia, cacciato 2 volte dal regno in vicende complicatissime, e duca di Lorena in quel momento. Non avendo potere, fa il salotto intellettuale più importante d'Europa, Voltaire, Montesquieu stanno lì, e lui trasforma questo suo palazzo molto austero in un luogo di delizie, ed era un fine era un gastronauta, potrei dire, sì. Perché andava in giro per taverne, cose, cioè, si segnava le ricette e poi le rielaborava nelle sue cucine principesche, diciamo così. E a un certo punto inventa questo dolce. In realtà nasce dall'idea di fare una cosa molto leggera, e quindi rompe per 3 volte il lievito, là di quelle parti faceva una specie di panettone, e ottiene questa sostanza porosa, spugnosa, che però riempie di uvetta di Smirne, uvetta Corinto e zafferano. Il dolce è secco, e siccome aveva questo profumo d'Oriente, lui era stato prigioniero dei turchi, tutta una vicenda complicata, lo chiamerà l'Ali Baba, in omaggio alle Mille e Una Notte, che era la sua lettura preferita. Ecco, da cui è nato. Poi rimani, perché poi ho anche un altro dolce interessante napoletano. Sì. Io voglio chiedere, no, sentiamo Franco da Milano. Buongiorno Franco. Buongiorno. Io ho sentito parlare di Gorgonzola, che ho associato direttamente al Taleggio. Il Taleggio viene fatto in Val Sassina, però è una valle che confina con la Val di Taleggio, per cui io mi chiedevo se anche qui in assonanza cioè il nome comunque aveva un collegamento diretto col formaggio. Beh certo, mi sembra di sì, mi sembra proprio di sì. E sentiamo anche Alberto dalla provincia di Monza Brianza. Mamma mia, dottor Paolini, mi tocca smontare tutti i miti che abbiamo sentito fino adesso. Volentieri, prego. Allora, Gorgonzola, il famoso quello più venduto, il famoso Secce la goccia, è prodotto a Caravaggio, nella Bergamasca, nel famoso stabilimento dei Nevernizzi, per decenni di proprietà del gruppo Kraft, adesso è diventato del famoso gruppo Lactalis francese. Il Taleggio, bontà del Signore, viene prodotto nei caseari di Certosa di Pavia, sempre di questi gruppi, del gruppo Mauri ad esempio nella bassa Bergamasca, poi viene portato tutto in Valsassina e messo a maturare nelle loro grotte e assieme a parecchio Gorgonzola, per cui sono formaggi che prendono latte da mucche da tutta la bassa della Lombardia. Ma Alberto, io la interrompo, questo lei dice il più famoso, ma a me non interessa il più famoso, il più pubblicizzato, a me interessa andare a vedere alle origini oggi, e poi di prodotti mi interessano molto più quelli che vengono prodotti in piccole quantità e non portati in questa maniera, trasportati in questa maniera, quindi diciamo che abbiamo visioni completamente diverse, ma sicuramente possono coesistere tutte e due. Io ripasso la parola a Giovanni Ballarini, perché voglio chiedere a Ballarini, prima c'è stato un intervento che ha detto un signore, il parmigiano è lombardo, nasce in Lombardia, addirittura ha detto milanese. Giovanni, tu che sei un parmense doc, cosa ne pensi? Allora, il formaggio ottenuto dal latte di mucche nasce nel 1100-1200 in tutta quanta la zona che va più o meno da Milano fino a Modena. Sono i monaci che facendo le abbazie hanno bisogno di arare, hanno le mucche e queste mucche producono questo formaggio a lunga stagionatura. Quindi l'area di produzione è molto ampia. I parmigiani sono i più attivi nel commercializzare questo prodotto, lo portano in Francia, lo chiamano parmesan perché è un parmigiano che lo porta, lo portano giù in Toscana e il Boccaccio lo conosce, parla del parmigiano, per cui il parmigiano diventa come un nome di commercializzazione del migliore formaggio nato nella zona. E allora si capisce come i lodigiani dicono che il loro è molto buono, i parmigiani che dicono la stessa cosa, i reggiani dicono anche loro le meraviglie del loro formaggio. Quindi dobbiamo accettare tutte versioni, certo. Origine. Non per niente posso dire che nelle corti di Parma nel passato si utilizzava sia il formaggio fatto in loco, ma veniva utilizzato con grande piacere anche il formaggio di Lodi, il lodigiano. Bene. Quindi c'è la possibilità di vita di questi singoli sottovarietà di lodigiano, di parmigiano. Beh, si chiamava granone, si chiamava granone, no? Il formaggio grana, perché sì, con la lunga stagionatura comparivano dei piccoli granellini di calcio e di tirosina che davano nome a questo formaggio che è unico nella sua grande famiglia, ma ha le singole specificità che adesso poi si sono concretizzate nel parmigiano reggiano doc, nel grano padana, nel trentin grana, che sono le tre, diciamo così, sottofamiglie identificatrici di questa grande famiglia. Grazie Giovanni per la tua brillante così illustrazione. Io voglio tornare a Fabrizio Mangoni, perché voglio tornare a un babà speciale. Mi risulta che una pasticceria notissima di Napoli, Scaturchio, storica, durante il G7 a Napoli nel 1994 abbia fatto uno speciale babà chiamato Babà Vesuvio che fu brevettato. Sì, è su mio disegno, perché con Mario Scaturchio decidemmo di fare una cosa che era, in realtà nasceva da uno spettacolo che io ho messo in piedi sul babà e che finisce appunto con questo omaggio alla città, perché il babà poi andrà a Versailles perché Stanislao era suocero di Luigi XV, arriverà a Napoli con Murat e si afferma come un dolce assoluto. Però c'era una questione che riguarda il bagno del babà. Questo Vesuvio io ho voluto bagnarlo con un sapore particolare che è il bergamotto, perché solo in Lorena, dove c'era Stanislao, nel Settecento il bergamotto era usato in chiave alimentare, non solo come base per profumi. E allora mi sembrava di fare un omaggio a Stanislao, il quale non aveva mai gradito i bagni che si facevano anche a Versailles con rum, e d'altra parte però questo dolce troppo secco poi dopo un poco diventa duro, quindi c'è un problema di bagnarlo. E quindi facemmo con Mario Scaturchio questo fantastico e lo servimmo al G8, che era un... E mi sembra bello questo ritorno, così questo chiudere questo viaggio, appunto il lungo viaggio del babà fra Versailles, Lunéville, Lorena e Napoli. E poi a Napoli si afferma perché sostanzialmente, pensa che a Napoli non c'è nessun dolce che ha lievito, quindi i dolci con lievito sono prodotti di campagna, per affermarsi perde i canditi e diventa un assoluto di morbidezza, un sogno di perfezione per un posto che perfetto non sarà mai, diciamo così. Grazie a Fabrizio Mangoni, ti ringrazio, e ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, i radioascoltatori rimangono in linea che sentiremo anche quelli che sono in attesa, a fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, anzi sul finale. Sentiamo Vittorio dalla provincia di Lecco. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Paolini. Allora, io sono di Ballavio, praticamente il primo paese della Val Sassina. Vorrei, cioè, c'è stato un ascoltatore prima che ha detto giustamente della Val Sassina. Sì. I nomi più importanti che ci sono sul mercato dei formaggi, Invernizzi, Galbani, vengono via tutti i vecchi, i nonni, da Ballabio, poi c'è tutta una grande diffusione di altri nomi più importanti che fabbricano formaggio, Gorgonzola, eccetera. Proprio là, il ceppo di partenza, vengono via da lì, ci sono ancora le loro case. E poi ci sono un'infinità di ditte, piccole ditte artigianali, che producono stracchini, robbioli, e caprini veramente fatti. Bene, Vittorio, viva la Val Sassina allora. Viva la Val Sassina, ma lo sappiamo che è un'area che produce ottimi formaggi, quindi anche lei, così come diciamo, vuole ribadire la territorialità di alcune specialità. Benissimo, grazie Vittorio. E ora parliamo di paste, perché anche le paste, i nomi sono, e le origini sono veramente molto, molto strane e molto divertenti. Parleremo di strozzapreti e parleremo di anolini. Allora, abbiamo con noi Graziano Pozzetto. Buongiorno Graziano. Ciao Davide, a te e a tutti gli ascoltatori. Il più grande autore di antropologia del cibo romagnola, quindi una romagnola autentico. Senti Graziano, da dove arriva? Beh, si può capire, strozzapreti, però io so che ci sono interpretazioni diverse. C'è chi dice di qualcuno... diverse interpretazioni, Davide. Una religiosa politica. Una minestra identitaria, povera, una pasta senza uova, se ne ottenevano con le mani dei cordonetti, delle cordicelle che venivano lavorate tra le palme delle mani, legate a nastro, con condita in maniera molto rustica e povera. Il nome così caratteristico è legato al fiero anticlericalismo garibaldino dei repubblicani romagnoli di un tempo, quando durante il confessionamento la Sdora, la reggitrice della casa, strozzava questa cordicella tra le mani e pensava ai preti, quelli del genere bacchettone, conformista, ne faccio una caricatura ovviamente, e si immaginava quando trattava questa cordicella di strozzare certi preti. Poi dall'altra parte, nell'immaginario popolare di un tempo in Romagna, si esaltava la capacità degli strozzapreti di riempire lo stomaco e sfamare con efficacia, ecco, tanto che avrebbero potuto strozzare i preti, notoriamente forti mangiatori. Ma diciamo anche a Graziano, Graziano, c'è anche un'altra interpretazione. Quale si affrontavano le ossessioni della fame in Romagna di un tempo. Ecco, nome simpatico naturalmente, legato al confezionamento manuale, e più o meno grassocci gli strozzapreti, morbidi, ecco, erano maggiormente in grado di strozzare, appunto, tra virgolette, maggiormente chi li mangiava. Bene, grazie Graziano, ma bisogna anche aggiungere che ci sono gli strangolapreti in Trentino e gli Strangola Prevete in, a Napoli, quindi diciamo che è abbastanza diffuso questo, di, questo tipo di pasta con questo riferimento. Ci sono anche interpretazioni che dicono che siccome erano bianchi e lucidi, diciamo, come pasta, ricordavano il colletto che un tempo portavano, portavano i preti e i sacerdoti, e c'è anche qualcuno che si augurava che appunto anche in Trentino e a Napoli, diciamo, lo strozzamento del prete. Ma ora andiamo agli Anolini, andiamo a Parma. E abbiamo con noi Giuliano Molossi, che è direttore della Gazzetta di Parma. Perché? Perché suo padre, che è stato forse uno dei più grandi gastronomi e autore di diversi testi, Baldassare Molossi, aveva scritto, diciamo, nel, in un libro, La cucina parmigiana, contestava l'origine che un prete, Ferruccio Botti, aveva riferito agli Anolini, l'origine da Raviolen. E quindi lui contestava che questa fosse l'origine appunto del nome Anolini. È così, Giuliano? Sì, è così. Buongiorno a tutti. Tra l'altro io il caso ho voluto che ieri fossi proprio a una cena dell'arciconfraternita dell'Anolino, pensate. A Parma c'è anche questo. E anzi, possiamo ricordare che Baldassare Molossi, mio padre, ha addirittura depositato dal notaio la ricetta degli Anolini che più risponde alla nostra tradizione, affinché proprio non se ne perda la memoria. Bene, ieri in questa cena dell'arciconfraternita è stato consegnato un'antologia di racconti intitolata Sua Maestà l'Anolino, gli racconti di scrittori e giornalisti attorno all'Anolino, che a Parma poi soprattutto in questo periodo è veramente sacro. E in questa, in questo libro c'è una prefazione di Roberto Tanzi in cui si dice che a voler essere pignoli, storicamente gli Anolini non sono nati a Parma, anche se qui la ricetta si è codificata nella forma, nei modi che conosciamo, ma che probabilmente fu Roma a dare i natali a questo tipo di pasta ripiena. E questa è una cosa che non tutti sanno. No, infatti assolutamente la imparo anch'io oggi, in questo momento credo che magari molti tuoi compaesani saranno allibiti. E infatti, però come tu sai, come tu sai bene Davide, a Parma gli Anolini nel dialetto non si chiamano Anolè, ma si chiamano caplet, cioè la gente dice mangio due capelletti, ma vaga maniera du caplet. È vero. Dice così in dialetto. No, l'Anolino non si traduce in dialetto, capisci? E questo potrebbe dar ragione a questa ipotesi. Quindi, ma sai, sulla pasta ci sono tante guerre, perché basta ricordare la guerra tra Modena e Bologna sui tortellini, addirittura sono scesi in campo scrittori importanti della nostra storia della letteratura su questo argomento, e poi vedere anche il cappelletto romagnolo rispetto al cappelletto di Reggio Emilia, quindi le guerre ce ne sono tantissime, ma è anche bello che si possa ancora parlare di questo con tutta tranquillità. Certo, per non parlare della guerra sul sugo, sul ripieno degli Anolini. Ah, ecco, anche questo è un altro problema, vero? Certo, che c'è a Parma e che è stato oggetto di discussioni infinite sulle pagine della Gazzetta di Parma, naturalmente alimentate anche anni fa da mio padre, che ne traeva molto, molto gusto da questa polemica. In realtà, sostanzialmente a Parma centro, Parma città, il sugo si fa ancora, il ripieno degli Anolini si fa ancora con lo stracotto, e mentre nella bassa si fa solo col formaggio, naturalmente formaggio parmigiano 30 mesi. È la stessa storia del cappelletto tra l'Alta Romagna e la Bassa Romagna. Grazie Giuliano di essere intervenuto con noi. Sentiamo Nicola da Roma, c'ho 30 secondi Nicola. Buongiorno, io volevo domandare l'origine delle castagne del prete che si utilizzano in Campania, anche queste nella provincia di Avellino, nell'Alta Erpinia. Beh, non sono in grado di rispondere, non abbiamo più tempo per lanciare questo SOS ai nostri radioascoltatori, però diciamo che questa trasmissione potrà anche continuare, perché non abbiamo parlato del panettone, del tiramisù, del violino di capra, del culatello. Bene, abbiamo tanti altri argomenti, magari nelle prossime settimane torneremo di nuovo. Quindi io vi saluto, vi ricordo che allegato al Sole 24 Ore oggi è uscito della guida, delle guide del gastronauta, gli artigiani del centro, e quindi sicuramente un diciamo volume interessante dove ci sono dentro tutti gli indirizzi e le schede dei tanti casari, produttori di salumi, panettieri, macellai e via di seguito. E io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.30 e con la pillola ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 11.05 e alle 23.05. Un caro saluto da Davide Paolini.